Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno da Deborah Rosciani, anche Salva Danaio in diretta dal Salone del Libro di Torino, questa enorme kermesse dell'editoria che naturalmente vede in rassegna anche numerose pubblicazioni nel settore economico-finanziario. Noi però abbiamo voluto mantenere il taglio di Salva Danaio consueto occupandoci di mercati finanziari, dato che da qualche settimana gli osservatori più attenti e interessati si saranno accorti che il mercato è ritornato un po' sulle montagne russe per tante motivazioni che abbiamo anche spesso analizzato e spiegato dai nostri microfoni. Anche venerdì, a causa delle insicurezze che sono state provocate dal cosiddetto piano salva euro, la giornata di borsa si è chiusa in modo pessimo, le vendite, lo ricorderete, hanno colpito soprattutto l'Italia. Oggi l'umore si è un po' risollevato, adesso vedremo anche il quadro che si sta registrando da questa mattina, e però insomma c'è grande difficoltà per esempio anche sul mercato obbligazionario, perché sono tornati a salire i rendimenti, che in apparenza potrebbe anche essere una buona notizia, se non fosse che salgono perché sono gli acquirenti, gli investitori che chiedono di essere remunerati in maniera più consistente per investire in questa asset di investimento. Noi siamo a Torino per commentare questa situazione, anche per capire, ovviamente rivolgendoci ai piccoli investitori che sono all'ascolto di Salva Danaio come sempre, per capire se possono essere inviati anche dei messaggi rassicuranti rispetto a questa situazione, come si governa anche l'emotività in frangenti delicati come quello che stiamo vivendo in questo momento. È molto difficile, lo sanno bene le società che gestiscono i patrimoni appunto dei risparmiatori, gestire ovviamente le incertezze è un compito molto, molto importante in questo momento. Allora noi questa mattina abbiamo invitato per parlare di tutto questo, per analizzare un po' quello che sta accadendo, quello che potrebbe accadere, e per analizzare anche le tematiche legate all'educazione finanziaria, perché posizionarsi adesso nel settore degli investimenti in qualsiasi direzione è sicuramente molto difficile avere un orientamento chiaro per un piccolo risparmiatore. Allora come si può, come ci si può orientare in una fase delicata come questa? Io do il benvenuto a Torino, a chi a Torino per la verità già ci abita, in realtà dovrebbe essere lui a dare il benvenuto a me, il dottor Guido Giubergia, presidente e amministratore delegato del gruppo Ercel. Benvenuto. Grazie. Al stand di Radio 24. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, Ercel è una delle più importanti società italiane di gestione del risparmio, vince numerosi riconoscimenti abbastanza frequentemente, evidentemente ci sono dei buoni gestori che insomma fanno bene il loro lavoro. Qualcuno la definisce anche una società blasonata, perché il cognome Giubergia appartiene ad una dinastia storica di agenti di borsa. Dico male, dottor Giubergia? Effettivamente è da un po' di anni che siamo sul mercato, quindi direi che se la notorietà è pari alla durata, in qualche maniera posso... No, io ho sottolineato questo aspetto perché ci interessa anche, come dire, analizzare la vostra esperienza rispetto a quello che stiamo notando in questo momento sul mercato finanziario. Che cosa le suggerisce questa fase di volatilità? Perché noi siamo passati dalla crisi dei mutui subprime, che ha avuto il suo culmine nell'autunno del 2008, con il marzo anzi dello scorso anno, i mercati che hanno visto il loro picco minimo, poi hanno cominciato a risalire, adesso siamo piombati nel bel mezzo della crisi degli stati sovrani dell'Eurozona. È uno scenario assolutamente inedito, che spaventa sicuramente anche tutte le persone che assistite dal punto di vista della gestione del risparmio. Non c'è dubbio che la fase che stiamo vivendo è una fase di grandissima tensione e grandissimo nervosismo. Direi che la crisi a cui abbiamo assistito è una crisi che, come molti di voi sanno, è partita ormai da quasi due anni, direi un anno e mezzo abbondante. La crisi ha lasciato tante vittime, è una crisi che sostanzialmente è nata da un livello esagerato di indebitamento di imprese, di famiglie e di governi. Quindi quello che è successo, tutta la crisi è nata, come molti sanno, dagli Stati Uniti. L'America è riuscita a tamponare la crisi trasferendo una grande parte dell'indebitamento privato o delle imprese, specialmente delle banche, sullo Stato. Questo è avvenuto in maniera diversa, in maniera anche molto, molto meno drammatica in Europa, per cui noi oggi ci troviamo inevitabilmente in una situazione in cui, a fronte di debiti di imprese e molto meno in Europa, molto più in America, di famiglie rappresentavano l'elemento più preoccupante dello scenario, ci siamo ritrovati oggi con un livello di indebitamento medio dei governi molto superiore in tutto il mondo. Scenario che peraltro non era neanche del tutto imprevedibile, no, se vogliamo. Assolutamente, e questo scenario era prevedibilissimo. Quello che poi facciamo tutti un po' fatica a prevedere quando si manifestano questi momenti di crisi, perché in una situazione sicuramente molto meno solida di quella di prima per quello che riguarda i debiti pubblici, è evidente che noi continueremo ad assistere per lungo tempo a fasi di maggiore tranquillità e a fasi di crisi, perché inevitabilmente ogni qualvolta ci sarà il dubbio che un paese in qualche maniera non possa, non dico far fronte, perché quello è veramente il punto di minima, però possa in qualche maniera non riuscire perfettamente a venire incontro a quelle che sono le aspettative di chi ha dei crediti nei confronti di quel paese, non c'è dubbio che avremo una situazione di crisi. Questo fenomeno riguarda un po' tutti, chi più, chi meno. Infatti, e non c'è naturalmente neanche da dimenticarsi che qualcuno ha avanzato anche questa ipotesi appunto relativamente al nostro paese. Poi magari dedicheremo uno spazio della nostra trasmissione anche alla situazione italiana. Intanto ho mancato l'appuntamento iniziale di Salva Danaio, che a cui molti ascoltatori sono affezionati, cioè il racconto del quadro odierno di borsa. E allora, si era partiti male, stamattina poi hanno cambiato umore le borse del vecchio continente. Adesso vedo Parigi che sale dello 0,6%, Francoforte sale di un punto, Londra sale di un punto, Milano molto meglio, guadagna l'1,43%, ma Milano è reduce dalla peggior giornata in assoluto dell'Europa, quella che ha vissuto venerdì scorso con, come al solito, le vendite che si sono assolutamente accanite soprattutto sulle banche. Invece stamattina sono proprio le banche a trainare su Piazza Affari, con il Banco Popolare che segna un più 9%, il gruppo ha rassegnato i suoi conti la settimana scorsa, Saipem più 3, Tenaris più 2,67, quindi con il petrolio che peraltro è sceso intorno ai $70 al barile, i titoli del settore stanno risalendo stamattina. E anche i carburanti, peraltro, situazione abbastanza originale pure questa, meriterebbe un'altra puntata, ma anche il tema dei prezzi dei carburanti, abbiamo dedicato tante trasmissioni delle nostre. Tenaris più 2,62, Monte dei Paschi più 2,58, Popolare di Milano più 2,50, Generali più 2, Finmeccanica più 2, insomma. Poi le vendite invece sono molto forti, molto intense su Geox, che continua ad essere tra i titoli più penalizzati dagli investitori, perde il 4,71%, Fiat, dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa che ha visto ovviamente il mese di aprile scendere sensibilmente perché ormai tutte le politiche di incentivi sono terminate, -1,67%, in realtà il titolo del Lingotto era partito con un ribasso di 4 punti, adesso ha recuperato. Azimut, questo titolo del risparmio gestito pure da settimane, non piace assolutamente agli investitori, anche oggi perde 1,5%. E poi, insomma, l'osservato speciale della giornata, come dicevo prima, è ancora una volta l'euro sul dollaro, adesso a 1,2310, ma stamattina è scivolato lo Tor Giubergia ai minimi da 4 anni a questa parte. Questo è il segnale appunto di questa crisi che l'eurozona sta vivendo. In molti dicono sì, cerchiamo di guardare, come dire, il lato buono della situazione, riprendiamo un po' ad esportare, visto che da questo punto di vista la moneta forte prima non ci aiutava. È una buona notizia, una cattiva notizia, insomma, questo euro a questo livello, come la vogliamo vedere? Beh, direi che non è, secondo me, né una notizia buona né una notizia cattiva. Quello che sta succedendo all'euro è la conseguenza di una debolezza intrinseca nel quadro macroeconomico europeo e soprattutto della sua enorme debolezza politica. Perché la crisi ha colpito tutti, ha colpito gli Stati Uniti, direi forse con ancora più forza, e ha colpito il Giappone, ha colpito, insomma, stando nell'area dei paesi industrializzati, più industrializzati, tutti i paesi sono stati più o meno egualmente toccati da questa crisi. Non c'è dubbio che la reazione di paesi come gli Stati Uniti, che hanno una compattezza e un governo molto forte, è tale per cui la capacità anche di uscire dalle situazioni di crisi è molto più elevata ed è anche molto più rapida. Quello che sta denunciando il mercato, ma credo con una buona dose di ragione, perché poi alla fine i mercati gira e rigira hanno sempre ragione, è che l'Europa viceversa manifesta un sacco di buona volontà, perché insomma quello che è successo domenica scorsa l'abbiamo tutti visto, il consenso trovato a livello europeo nel mettere sul piatto dei rimedi per cercare di tamponare le falle dei paesi membri sono importanti. Ciò non di meno, quello a cui i mercati credono ancora con grande fatica è la capacità poi di passare, nel caso dell'Europa, dalle parole ai fatti. E quindi, siccome non c'è dubbio che per riuscire a mettere la situazione sotto controllo bisogna attuare delle politiche molto rigide, che ovviamente impattano anche sul piano sociale, perché inevitabilmente è così, infatti, evidente, visto. Voi sapete bene che la maggior parte dei paesi europei, prima di tutto Italia e Francia, hanno un sistema di welfare particolarmente evoluto, ma non si sa se in senso positivo o negativo. Comunque, da questo punto di vista, qualunque perché misura... Le finanze pubbliche comunque pesante, insomma. Non c'è dubbio, questo è pesante, e al di là dei tentativi da parte dei politici sempre di affermare di non voler toccare la categoria A o B o C, evidentemente, se non si contengono le spese in moltissimi settori, la possibilità di risanare i bilanci non esiste. Quindi i mercati sono dell'opinione che le affermazioni di natura politica faranno molta difficoltà a essere seguite da delle azioni concrete. Allora, anche perché lo abbiamo detto più volte, insomma, l'Unione Europea è al momento solo ed esclusivamente un'unione monetaria, manca un'aggregazione di natura fiscale, ovviamente dal punto di vista politico si viaggia in maniera indipendente ovunque, per cui chiaramente è un'aggregazione, un'unione ancora molto fragile. E per fortuna che almeno c'è questa, perché altrimenti chissà che cosa sarebbe successo con la crisi degli ultimi 3 anni. Allora, io tra l'altro non ho ricordato che si può intervenire da casa con la solita modalità all'800240024, vedo già degli ascoltatori pronti naturalmente a esprimere la propria opinione questa mattina, ma anche a chiedere magari suggerimenti sulle modalità di impiegare il proprio risparmio, così come lo dico anche alle persone che sono qua di fronte a noi, se qualora qualcuno avesse qualche curiosità sulle tematiche finanziarie che stanno maturando in questo momento, noi siamo a vostra disposizione, quindi con un microfono, e possiamo cogliere anche le vostre osservazioni. Allora, sentiamo, già che ci siamo, abbiamo ancora un paio di minuti prima di andare con la prima pausa, sentiamo Gianni da Milano, che saluto. Gianni, buongiorno, benvenuto a Salvadanaio, oggi lo ricordo dal Salone del Libro di Torino, benvenuto. Anch'io saluto, grazie mille. Volevo fare una annotazione, un paio di annotazioni. La prima, sì. Che è vero che l'euro sta perdendo, ma tutto sommato non la vedo una cosa così negativa, perché non ci disperavamo quando l'euro era a pari col dollaro, o è partito a 1,18 se non ricordo male quando è nato, voglio dire, non mi spaventerei per quello. Mi fa piacere invece che vedere lo spread, diciamo in Italia, che si avvicina sempre di più a quello tedesco, quindi questo per me è un fatto positivo. Poi chiaro, i costi dei bond aumentano gli interessi, questo lo vedrà poi la politica monetaria europea, primo per l'Europa. Secondo, per i consumatori, è vero che bisogna risparmiare, bisogna sapere come investire i soldi, eccetera, però una delle cose che mi dà più fastidio è notare che dai tempi in cui è arrivata una raffica di aumenti sul prezzo dei carburanti, il prezzo del petrolio è calato del 17,5%. Il valore dell'euro rispetto a quelle date è calato del 7,5%, questi sono conti che ho appena fatto intanto che aspettavo la vostra chiamata. Bravo Gianni, perché non avrei avuto il modo adesso di verificare, mi fido di lei. Se lei si fida... Ma comunque adesso si può sbagliare di poca frazione, insomma, ma non il concetto l'abbiamo compreso, quindi... Allora, prima di tagliare le tasse, proviamo a tagliare i prezzi, che forse... è ancora più rapida la cosa, no? O no? Ma questo finalizzato a che cosa, Gianni? Eventualmente per ridare un po' di fiato alle persone e ridar loro l'opportunità di risparmiare qualcosa. Alle stesse persone che dovranno contribuire per ridurre il debito italiano, e quindi gli verrà tagliato qualche cosa, ovviamente, io me lo aspetto, ma in compenso se gli si fanno i veri prezzi di mercato, un po' di soldi li recuperano anche dal mercato, voglio dire. Salvadanaio ritorna in diretta dal Salone del Libro di Torino, ancora buona giornata, era Deborah Rosciani, Salvadanaio in trasferta, ma i temi di cui ci si occupa sono sempre gli stessi, quindi monitoraggio dei mercati finanziari anche alla luce di questo ottovolante che abbiamo rivisto nelle ultime settimane, provocato dalla crisi greca, dalla crisi poi anche di tenuta dell'Unione Monetaria Europea, una crisi che si è riflessa anche sulle valutazioni naturalmente della borsa e delle divise, perché come abbiamo raccontato anche questa mattina, mi riaggancio a questo tema perché era l'oggetto dell'ultima riflessione dell'ascoltatore che ci ha chiamato all'800240024, l'euro è scivolato pesantemente nei confronti di tutte le altre monete internazionali, soprattutto sul dollaro, stamattina 1,2232 ai minimi da 4 anni a questa parte. Ma Dottor Guido Giubergio è il nostro ospite di questa mattina, che essendo di Torino ci ha raggiunto, presidente e amministratore delegato di una importante casa, società di gestione del risparmio, Ersel. L'ascoltatore diceva, ma insomma non ci spaventiamo, sono livelli che comunque abbiamo già visto. Io credo che l'ascoltatore non avesse torto, il tema è come è arrivata a questo livello, il problema che è stato provocato da una crisi inedita, non da fattori, come dire, di riequilibrio economico che magari potevano avere un raziocinio differente. Guardi, quello che ha detto l'ascoltatore è corretto, cioè non è che ci sia da strapparsi i capelli perché l'euro è a 1,22, visto e considerato che siamo nati a un rapporto di 1,17, poi l'abbiamo visto molto al di sotto di quello. Il problema non è quello, effettivamente, come appena adesso ha detto la dottoressa Rosciani, il vero problema è perché sta succedendo questo. E sta succedendo perché, prima cosa, la velocità con cui capita. Secondo, il grosso problema dell'euro in questo momento non deriva da fattori economici, deriva da fattori finanziari, legato al fatto che ci sono in corso e ci sono state delle grandissime vendite di titoli emesse dagli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi tutto questo ha impattato violentemente sul corso dell'euro. Quindi la genesi che ha portato a questa situazione è una genesi di per sé negativa, cioè è in corso un cambiamento un po' storico, dove per storico possiamo dire un ciclo di un certo numero di anni, in cui sicuramente l'euro, che ha avuto una forza relativa notevole negli ultimi anni, sicuramente sta diminuendo e anzi sta invertendo il trend. Che poi questo possa giocare a favore di molte aziende che esportano, eccetera, eccetera, questo è un dato di fatto positivo, per cui ci sono anche molti imprenditori felicissimi del fatto che l'euro stia a 1,22 o vada magari a 1,15. Però nello stesso tempo bisogna dire che il motivo per cui sta succedendo non è un motivo virtuoso, è un motivo purtroppo legato alla difficoltà da parte dei paesi membri dell'Unione di intervenire su fenomeni di controllo del debito pubblico. Questo è il motivo. Dottor Giubergia, Ersel gestisce diversi fondi di investimento, però è una persona con la quale so che si può amabilmente chiacchierare di tutto, davvero è un ciclista appassionato, professionista, in questo momento un po' per problematiche di varia natura fermo dalle sue competizioni sportive, e però le volevo chiedere, andrà anche in auto. C'è un ascoltatore che scrive, 2 anni fa la benzina costava €1,50 con il petrolio a $150, ora la benzina a €1,40 con il petrolio, come dicevamo stamattina, a $70 e l'euro allo stesso livello di 2 anni fa. Mistero, come le spieghiamo queste cose ai consumatori, dottor Giubergio? Non è facile, cioè, nel senso che indubbiamente quello che succede è che ci sono sempre dei fatti vischiosi tra gli aumenti dei prezzi delle materie prime e il prezzo al pubblico. Per cui c'è sempre una distanza temporale che comunque non sempre giustifica la situazione in cui viviamo. Quindi effettivamente non c'è dubbio che sono molti i modi in cui le compagnie petrolifere riescono a cercare di cavalcare queste onde, per cui la lamentela spesso di chi si ritrova in questo tipo di situazione è giustificata. Sicuramente nell'ultimo periodo ha anche giocato il fatto di questa svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro, per cui ha reso ancora più costoso l'acquisizione di petrolio che, come tutti sanno, avviene in dollari. Per cui questo si aggiunge. Riuscire a giustificare con precisione i meccanismi di traslazione dei prezzi da quelli del barile a quelli alla pompa non è semplice, e come dico, spesso le lamentele sono giustificate. Ci sono degli ascoltatori che ci seguono ovunque, anche quando Salvadanaio e le altre trasmissioni di Radio 24 si spostano su varie piazze italiane. C'è Gianni da Varese, che è un ascoltatore molto affezionato a Salvadanaio. Gianni, buongiorno, e so che lei ha questa fissazione delle valute che ci ha portato anche qui questa mattina. Buongiorno. Grazie mille signorina e complimenti per la trasmissione, siete bravissimi. Grazie a lei. Grazie. Senta, volevo chiedere all'esperto 2 domande. La prima, se secondo lui a questi livelli è ancora opportuno comprare delle obbligazioni AAA della BEI, no, che sono in valuta forte, tipo corona norvegese, dollaro canadese o dollaro australiano. Ad esempio ce ne sono alcuni che si pagano 98 e che rendono il 4,5%. Seconda domanda, secondo lui dove arriverà l'euro? Nella sua discesa. Grazie mille, buongiorno. Grazie Gianni, io peraltro nei giorni scorsi mi sono fatta un giro all'IT Forum, alla fiera del trading e dell'investment appunto di Rimini, dove c'erano molti trader, quindi insomma persone persone che stanno sul monitor dalla mattina alla sera e valutano soprattutto non tanto dal punto di vista dell'analisi fondamentale quanto solo ed esclusivamente dal punto di vista dell'analisi tecnica, dove vanno le azioni delle società, dove vanno anche, qual è la direzione anche delle valute, e molti mi dicevano insomma che vedono proiettato questo rapporto euro-dollaro a 1,1, quindi una discesa che potrebbe ancora continuare. Detto questo, partiamo dalla prima parte dell'osservazione di Gianni, perché lui ha messo insieme un po' di cose interessanti secondo me. Obbligazioni in questo momento di organismi sovranazionali, quindi la BEI, rating AAA, e qua poi vorrei fare due riflessioni con lei anche sul tema del rating, che è l'altro grande cavallo di battaglia della finanza in questo momento. Ha citato tre valute, neanche me ne ricordo, corona norvegese, dollaro australiano, anche l'australiano. E allora, questo portafoglietto che Gianni si è costruito idealmente, le piace, dottor Giubergia? Allora, quello che lei ha detto è corretto, ovvero ha citato la BEI, che è un emittente che oggi non è in discussione, ha citato tre valute che sono sicuramente le valute di tre paesi che hanno situazioni di bilancio pubblico decisamente migliore degli altri. E quindi direi la scelta che lei fa quando si parla di fare una scelta estremamente prudente è molto condivisibile. Il problema è, da un lato, che sono valute, adesso è chiaro che se uno compra per se stesso delle cifre relativamente modeste, questo non ha nessun tipo di impatto. Il guaio è che sono valute che sul mercato finanziario internazionale hanno una dimensione relativamente piccola, e quindi purtroppo non, il mercato delle obbligazioni e della valuta non sono dei mercati così liquidi, soprattutto per i grandi investitori. L'altra considerazione è che se poi lei guarda, visto che segue queste cose probabilmente meglio di me, quello che è successo negli ultimi tempi, parlo in particolare della corona norvegese, vedrà che comunque c'è già stato dietro di noi una salita formidabile nei confronti dell'euro, e quindi ovviamente oggi si entra a dei livelli di valuta che sono completamente diversi da quelli di sei mesi fa. Per cui giusto farlo nell'ottica di una grande prudenza. Io penso che comunque, siccome questi sono fatti così complessi e specialistici, continuo a pensare che è difficilissimo riuscire a far meglio di gestori specializzati che facciano quello sul serio, per cui se lei mi chiede se oggi è meglio tenere i propri soldi in obbligazioni in euro o avere al limite metà e metà tra obbligazioni in euro e un buon fondo obbligazionario internazionale, io sicuramente le rispondo che è molto meglio la seconda della prima soluzione. Poi il fatto di riuscirlo a fare da sé, lì non è così semplice, perché appunto a fronte di ogni situazione di rendimento e di rapporto rendimento-rischio ci sono mille elementi che influenzano. Pertanto bisogna stare molto attenti quando si tocca a queste cose, perché spesso i privati non hanno la visione complessiva del fenomeno. E ho raccontato prima, ho spiegato prima raccontando due cose relativamente alla vostra società che vi assegnano, attribuiscono molto spesso dei riconoscimenti. L'ultimo è stato appunto al Morningstar Awards. Mi stavo chiedendo, anche per ottenere queste prestazioni, ovviamente c'è l'attività di gestione che è molto attiva, quindi molto molto accurata, molto attenta, mi chiedo anche quando scegliete le società o le obbligazioni da inserire nei vostri portafogli, quanto conta in questo momento questo benedetto rating che è stato messo in croce, soprattutto quello delle grandi agenzie appunto di rating, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, perché per esempio anche per quello che riguarda i fondi di investimento ci sono rating che vengono elaborati da altre società di natura indipendente che magari hanno, come dire, sono finiti anche adesso nel calderone della cattiva reputazione, come è toccato ai rating delle società di rating. Ma in sostanza, quanto deve esserci utile come piccolo risparmiatore anche l'utilizzo di questa pagella che molte società elaborano, appunto di queste pagelle che molte società elaborano per attribuire un valore in più o in meno al fondo, al prodotto di investimento che si sceglie? Ma dunque, premesso che è già difficile per noi riuscire a capire se il rating assegnato a un'obbligazione magari di un'azienda canadese piuttosto che americana, piuttosto che giapponese, quindi è già difficile per noi, per cui evidentemente, siccome una società che gestisce capitale non può avere la capacità di analisi su qualunque tipo di asset class, che siano azioni o obbligazioni nel mondo, e il rating secondo me va preso veramente soltanto come un riferimento, ma chi affida tutto al rating sbaglia, perché gli enormi problemi del rating, che poi in questo periodo sono sotto accusa tutte le parti, è che le società di rating arrivano sempre tardi. Quindi normalmente i downgrading, quindi l'abbassamento dei livelli dei rating, avviene sempre quando le cose sono già successe. i rating vengono assegnati con dei meccanismi sicuramente che sono gestiti in maniera corretta, ma sono sempre in ritardo, per cui affidarsi totalmente ai rating è sbagliato. La verità è che per un piccolo risparmiatore gli strumenti per poter avere un altro sistema di giudizio non esistono, e vi dico che già per gente come noi che fa questo di mestiere, noi stessi ci affidiamo in certi casi a dei gestori. Quello che citava prima la dottoressa Rosciani, che ha appena preso un premio nostro, che si chiama Fondazione Internazionale, è un fondo di fondi, quindi noi a nostra volta scegliamo degli altri gestori su vari mercati di nicchia a cui affidiamo la gestione, perché in quel modo siamo molto più sicuri che, essendo loro vicini ai mercati di riferimento, possono controllare direttamente l'effettivo grado di solvibilità, per esempio, dei debitori, cosa che è impossibile fare da qui, perché, come dico, lo puoi fare giusto sulle società italiane, ma diventa impossibile farlo altrove. Per cui torno a dire, l'unico sistema è trovare dei fondi gestiti bene. Sì, anche se sono da Torino, al Salone del Libro sono ingovernabile qualche volta per i tecnici, esattamente come succede a Milano. Mi tolgo la cuffia e faccio altre cose, converso serenamente con il nostro ospite Guido Giubergia, presidente amministratore delegato di Erselle. Allora, stiamo monitorando un po' lo scenario di mercato, perché questa è diventata, ovviamente, non dico l'ossessione, ma per qualcuno è diventata anche un po' un'ossessione, dottor Giubergia. Mi spiega un po' come avete governato l'emotività dei vostri clienti in queste ultime settimane? Si è dovuto prendere diversi calmanti, li ha dovuti prescrivere lei? Cosa Beh, è successo? Un insieme. Devo dire che noi, per le ragioni che lei ha citato già prima, che non è che ci occupiamo di queste cose da ieri, siamo abbastanza vaccinati. Poi, che uno riesca a vaccinarsi fino in fondo? No. Quindi è evidente che tutti siamo sensibili alle cose che ci succedono intorno, anche perché l'intensità e la violenza con cui capitano è sempre maggiore. Devo dire peraltro che anche i nostri clienti, che sono comunque gente che mediamente non è che si affaccia a queste cose da ieri, è sicuramente più solida della media. Mi rendo conto che per persone che non hanno nessun tipo di esperienza nel settore finanziario, questi possono essere dei veri e propri traumi. D'altronde la storia ci ha abituato a fatti del genere da sempre. Cioè, tutti ogni volta crediamo adesso le cose sono cambiate. Non è vero. Cioè, è sempre stato così. Diciamo che la differenza fondamentale di oggi rispetto al passato è l'intensità e la violenza, è come nel caso del clima. Cioè, il clima oggi ci ha abituati a dei fenomeni nuovi, molto più intensi e molto più violenti. Non è che le cose non succedessero, tutto si è raccorciato come tempistica ed è quello che genera stress. Non sono i fenomeni in quanto tali che sono sempre esistiti. Per cui noi cerchiamo di gestire queste cose, anche se non sempre facile. Bisogna, insomma, essere capaci di governare l'emotività. Allora, abbiamo una domanda dal pubblico di Torino. Prego. Sì, buongiorno. La mia domanda è questa. Nelle fasi di turbolenza passate sui mercati azionari, tipicamente equity, gli investitori, se volevano un porto sicuro... Azionario. Faccio un po' di traduzione per i nostri ascoltatori da casa. Azionario. Se gli investitori volevano un porto sicuro, tipicamente andavano sul mercato obbligazionario, magari titoli di Stato o obbligazioni bancarie. In questa fase invece abbiamo visto che la turbolenza si è estesa proprio anche a questo tipo di investimenti. Che tipo di riflessione o tipo di contromisure si possono prendere? Sì, in sostanza si è capito che anche l'obbligazione governativa non è più quel porto sicuro che allora, poteva rappresentare in passato. È fuori discussione che in passato, quando si parlava di investimenti tranquilli, si parlava di obbligazioni, e quando si parlava di investimenti a rischio si parlava di azioni. Non è più così, ma direi le ragioni oggettive per cui non è più così è perché sono cambiati i rischi. Perché i rischi che presentavano 10 anni fa, 20 anni fa le obbligazioni emesse dagli stati erano rischi molto bassi. I rischi che oggi invece sono insite negli strumenti emessi dagli stati sono molto più alti. Quindi diciamo che c'è stato in qualche maniera un avvicinamento del livello di rischio tra strumenti di tipo diverso. Quindi così come era sbagliato dire che le azioni sono pericolose e le obbligazioni sono sicure, oggi bisogna dire che bisogna essere molto più selettivi. Ci sono molte aziende che hanno dei bilanci talmente buoni, con delle prospettive talmente buone, che il fatto che poi vadano su e giù in borsa non è di per sé un dramma, perché se uno le tiene nel lungo termine di solito fa un buon affare. È meglio che non comprare magari un'obbligazione che apparentemente ti dà una percezione di tranquillità, e però che invece in certi momenti di crisi come quella che stiamo vivendo può avere degli scivoloni drammatici. Per cui il concetto stesso di investimento azionario obbligazionario va completamente riscritto. non si può, è troppo generico, oggi bisogna andare nel dettaglio. Ci sono degli stati che sono molto più pericolosi di certe imprese e quindi dire che il debito sovrano è una sicurezza è uno sbaglio. No, mi aggancio allora a... anche alla situazione italiana, dottor Giubergia, perché in molti investitori, anche non tanto internazionali, ma anche qualcuno domestico, ha espresso una grande paura anche nei confronti proprio dell'investimento nei titoli di Stato del nostro paese. Poi abbiamo avuto appunto modo anche di lasciar dimostrare all'Italia che in realtà la capacità di tenuta della situazione è stata molto più forte rispetto ad altri paesi, e però insomma l'Italia in un certo periodo di tempo è finita anche all'interno dell'acronimo PIGS, con le due I, insieme all'Irlanda, insieme al Portogallo, alla Spagna e alla Grecia, paesi appunto con elevati debiti pubblici di cui si temeva non potessero assolvere anche a tutti gli impegni finanziari per il mondo. Lei oggi come valuta la situazione italiana e gli investitori che sono assolutamente affezionati, anche non ricevendo praticamente niente, perché il bot a tre mesi oggi fra un po' paghiamo praticamente noi la banca per poterlo acquistare, in sostanza però li possiamo rassicurare per chi guarda solo ed esclusivamente a questo asset, l'investimento? Allora, direi la risposta è nel breve termine sì, nel lungo termine è difficile dirlo. Nel breve termine sì, perché comunque l'Italia, al di là del fatto che continua a rimanere il paese in Europa col maggior debito rispetto al proprio prodotto lordo, quindi insomma rispetto alla propria produzione, tanto per tradurlo in italiano, è un paese che negli ultimi anni ha saputo tenere molto meglio sotto controllo di altri il deficit, perché tutti devono sapere che il debito è una cosa, il deficit è un altro. Il debito è il debito del paese, il deficit è la differenza tra i costi e i ricavi del paese. È evidente che, poiché il deficit italiano è rimasto molto più controllato per una politica, diciamo, abbastanza ferma, soprattutto portata avanti dal nostro ministro dell'economia, che è un po' in solitudine, secondo me, ha dovuto cercare sempre di rintuzzare le pressioni da parte di tutti di aumentare, di aprire la borsa, questo ha portato a che in questo momento l'Italia abbia attraversato tutto sommato bene questi ultimi anni. È evidente che rimane un problema di fondo: l'Italia ha il debito pubblico più alto d'Europa rispetto al PIL ed è anche uno dei più grandi debiti nel mondo in assoluto, e quindi questo rimane sempre un elemento di estrema fragilità. Pertanto è inutile fare degli allarmismi o però di fatto la situazione non possiamo dire che sia una situazione di tutta tranquillità. Anche qui avremo delle fasi magari più critiche in cui qualcuno rimetterà in discussione certe cose e ne avremo altre più serene. Il grosso vantaggio dell'Italia non è tanto il rapporto debito-PIL, che è pessimo. Il grosso vantaggio dell'Italia è che buona parte di questo debito è collocato all'interno. Cioè, mentre sono paesi il cui debito è tutto collocato sull'estero, quindi sono veramente fragilissimi, il grosso vantaggio dell'Italia... Tipicamente le obbligazioni americane verso, sì, i cinesi. Ecco. Esatto, questo è proprio il caso più macroscopico, cioè il debito americano è collocato per una quota enorme sulla Cina e sul Giappone. Il debito italiano è per lo più nelle tasche degli italiani. Gli italiani sono ancora un paese molto risparmiatore e questo garantisce sicuramente la tenuta dei conti. Nel senso che se uno fa una specie di bilancio consolidato del debito italiano non è una situazione drammatica, proprio perché molto si elide, ma la verità è che però si elide con l'interno, quindi se i risparmiatori dovessero trovarsi un giorno nei guai non abbiamo sicuramente i cannoni alle porte di chi esige il proprio credito, nel caso avessimo un credito verso paesi esteri. Comunque è un problema sicuramente per i cittadini italiani. Dottor Giubergia, Salvadanaio è terminata, si è divertito, lei ci dà un suggerimento di lettura? Ma guardi, direi ci sono due estremi, ne abbiamo parlato in questi giorni da noi. Allora, un libro che secondo me, pur con tutti i sei ma del caso, parlando di libri un po' storici, c'è un libro che si chiama Come uscire dalla crisi di Keynes, che direi è un classico. Scrittore recente, però. Sì, voglio dire, però ecco, non vi parlo di libri di attualità. Che di fatto parla della crisi, è stato scritto negli anni successivi al 29, dove basta poco per rendersi conto che ci sono moltissime analogie, ma nel senso che molte analogie, perché effettivamente l'altro libro che io vi consiglio è un libro invece di Primo Levi, che non c'entra nulla, ma dove c'è proprio il contrasto tra quello che è l'economia finanziaria, che è basata su numeri, flussi, e invece l'economia terra a terra di un operaio che fa il suo lavoro e che gira il mondo. Si intitola il libro, e si chiama La chiave a stella di Primo Levi. Benissimo, io la ringrazio molto, è stato veramente grazie un piacere averla qui al Salone del Libro con Radio 24. Salvadanaio termina qua, noi ritorniamo a Milano. Buona giornata a tutti.